America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Berlino, Mario Platero. Ja, ich freue mich auch, dass wir uns wieder begegnen haben. Angela Merkel, hanno appena finito la Merkel e Barack Obama. Il presidente americano, come sapete, ha lasciato il G8 ed è arrivato ieri notte a Berlino, hanno terminato il loro incontro di lavoro, ovviamente costruttivo sotto molti punti di vista, perché la Germania e gli Stati Uniti sono due alleati chiave, con una differenza di fondo che secondo me resta. Perché se a parole tutti in Europa, Germania inclusa, sono a favore della crescita, di un rilancio dell'occupazione, alla resa dei conti poi la Germania frena sempre e certamente ha dato un'impostazione alla risposta alla crisi del 2007-2009 diametralmente opposta a quella che è giunta dagli Stati Uniti d'America. Lo stesso Barack Obama, Ben Bernanke, la Federal Reserve hanno sempre chiesto alla Germania di avere un atteggiamento molto più espansivo, ma la Germania ha sempre preferito tenere il piede sul freno. Comunque questo arrivo di Barack Obama è importante, il presidente resta straordinariamente popolare in questo paese e conferma che in fondo c'è una grande storia, una grande alleanza, un grande rapporto anche emotivo tra Stati Uniti e Germania. Una percentuale non irrilevante della popolazione americana, tra l'altro, è di immigrazione tedesca. Dunque il viaggio di Obama a Berlino non è stato soltanto un incontro di lavoro, ma è stato anche un abbraccio con la popolazione tedesca. La prima visita in mattinata di Barack Obama è stato a Schloss Bellevue, dove è stato accolto dal presidente tedesco Joachim Gauck. Schloss Bellevue, Castello Belvedere, un antico castello costruito nel 1786 da Federico II per il fratello minore, immerso in un parco, devo dire una costruzione bellissima. Poi l'incontro con la Merkel, la colazione con la Merkel, dopodiché un discorso davanti alla porta di Brandeburgo, infine una cena offerta dalla Merkel in onore di Barack Obama prima della partenza per Washington. Una visita, insomma, che nel suo insieme, alla conclusione questa sera, lascerà un po' quel sapore che abbiamo ascoltato anche molti anni fa. Ricordiamo che Barack Obama venne a Berlino quando correva per le elezioni del 2008 e fu accolto da una folla oceanica, e quindi alla memoria non può che tornarci quest'altro grande presidente americano che simbolicamente era molto legato alla Germania. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the word Ich bin ein Berliner. Una frase storica, una frase che è rimasta nella storia, pronunciata nel 1963, il 26 giugno del 1963, da John Kennedy, 22 mesi dopo la costruzione del muro di Berlino. Parlò davanti a 450.000 persone. Oggi Obama, davanti alla porta di Brandeburgo, cercherà di gettare un'altra pietra miliare. Davanti a questa porta parlò anche Ronald Reagan. Il 12 giugno dell'87 intimò a Mikhail Gorbachev, che era segretario a Mosca del Partito Comunista, tear down this wall, abbatta questo muro. Ecco, Barack Obama ha una proposta, lo abbiamo anticipato questa mattina, nonostante le difficoltà con Mosca sulla questione siriana, deciso di tendere una mano, proporrà una riduzione per le armi strategiche nucleari di un terzo ulteriore rispetto al livello minimo già concordato con Mosca, di scendere dunque a 1.100 testate. Ci sarà anche una proposta per ridurre le armi tattiche nucleari schierate nel teatro europeo. Ecco, ma tornando al business, vi ripeto, la mia impressione è che le differenze restano. Domani approfondiremo meglio gli aspetti tecnici e economici, anche perché sapremo che cosa dirà Ben Bernanke, quindi saremo in una posizione molto più informata per esaminare il contesto economico transatlantico. Ma Barack Obama si è reso conto che in Europa ha bisogno di alleati, e dunque è importante quello che è successo nell'incontro con il nostro presidente del Consiglio Enrico Letta, perché in qualche modo si è rimesso in carreggiata un rapporto che era diventato molto forte fra Italia e Stati Uniti sotto la presidenza di Mario Monti. E una cosa che mi ha colpito è che, insomma, Obama non è uomo facile dal punto di vista caratteriale, il rapporto personale per lui è importante, e entrambi, Letta e Obama, sono degli uomini molto pacati, molto riflessivi, e dunque da quel che ho sentito alla Casa Bianca la simpatia è stata istantanea. Per noi ovviamente questo è molto importante, perché noi siamo molto più avanti della Germania nel tentativo di cercare una sponda sul fronte del rilancio dell'economia e dell'occupazione. Dunque gli Stati Uniti, un legame forte con gli Stati Uniti che hanno approvato il programma economico di Letta, è importante. Per l'America è importante avere un rapporto forte con l'Italia che diventa una voce proprio per quelle politiche espansive che tutti ritengano siano indispensabili e necessarie. Ma la notizia del giorno con cui si è chiuso il G8 di ieri, il G8 britannico, è una notizia che arriva dall'Afghanistan, attraverso l'America. Barack Obama ha dato questa notizia al G8 ieri, una notizia importante perché ha rivelato che i talebani e il governo Karzai hanno deciso di avviare un negoziato diretto per la riconciliazione. Dunque, a questo G8 abbiamo assistito a un passo indietro per la Siria, un passo in avanti per l'Afghanistan e abbiamo ascoltato l'annuncio di due negoziati per la pace. Barack Obama da una parte è in stato d'assedio per le difficoltà che sta incontrando la sua strategia siriana e però poi ha chiuso il G8 politico con un successo a Kabul. Quali sono i termini di questa notizia? Beh, i talebani con l'appoggio di Mullah Omar, dunque un appoggio importante, hanno annunciato ieri di aver costituito una commissione politica, la commissione politica talebana, e di aver aperto un ufficio a Doha in Qatar per negoziare appunto la riconciliazione nazionale in Afghanistan. Una squadra di negoziatori afghani è già giunta in Qatar e fra due giorni arriverà una squadra di negoziatori americani e ci sarà un dialogo diretto con l'America, potrebbe portare a uno scambio di prigionieri e ci sono un paio di presupposti che hanno consentito l'avvio di questa nuova fase in Afghanistan. La prima, l'affermazione dei talebani che il territorio afghano non potrà essere usato per lanciare attacchi terroristici. La seconda, i talebani appoggeranno il processo di pace. Ci sono altri dettagli che abbiamo avuto dalla Casa Bianca. I talebani dovranno sottoscrivere tre condizioni e dare prova che poi le rispetteranno: rompere con Al-Qaeda, cessare ogni violenza, rispettare la Costituzione afghana e i diritti previsti per donne e minoranze. Dunque è una svolta importante. Barack Obama può così cercare di riscattare la sua leadership politica dopo le difficoltà in cui si è trovato per l'incapacità di far rispettare le sue richieste in Siria e per le difficoltà dei ribelli appoggiati dagli Stati Uniti, per lo stop che ha dovuto subire da parte di Vladimir Putin. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee sull'America che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, pensando all'incontro a Berlino tra Angela Merkel e Barack Obama, mi viene in mente una vecchia canzone composta nel 1943 quando gli americani si preparavano allo scontro con la Germania nazista. Erano naturalmente altri tempi, ma il titolo è più che mai attuale. Bing Crosby, Hot Time in the Town of Berlin. After the attack, Berlin, there'll be a hot time in the town of Berlin when the Yanks go marching in. I wanna be their boy, spread some joy when they take over Berlin. And may I join you? There'll be a hot time in the town of Berlin when the Brooklyn boys begin to take the joint apart and tear it down when they take over Berlin. A Berlino è tutto. Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.